Qualsiasi cosa vedi tu il mio nome non lo fare mai, che sono un campione a finire nei guai. Tanto so che ci stai e non c'è niente di male, anche se poi capita che so già che mi divertirò. Questi ci provano ma tu sai già con chi vuoi ballare da un tavolo. Retro console, aspetto che mi sale, poi scendo da te. Fumo da quella che ha girato il tuo amico, ma non dirai questa qua. Più le dico non mi va, più continua. Sto scegliendo la prima, sto prendendo la mira. Voglio rubarti il cuore. Qualsiasi cosa vedi tu il mio nome non lo fare mai, che sono un campione a finire nei guai. Tanto so che ci stai e non c'è niente di male, anche se poi capita che il tuo ragazzo prende il cell, fa 113. Sa che potrai scappare via e portarti con me. Furbo incorreggibile, mi dicono di te. Al mondo uno ce n'è come Lupin. Penserò quante volte noi tutta la notte svegli a scriverci. Io che sono in giro, tu con le mani sotto al cuscino, vengo a prenderti. Togli le scarpe e poi l'ultimo accesso, solo noi. Adesso mi chiederai qual è il motivo per cui non levi mai gli occhiali. Te lo spiego se vuoi. E lei rubò il mio cuore, che sai, si innamorava di lei. Bastavano gli sguardi diventati pianti. Quando lo tradi non mi vedrai più così. Qualsiasi cosa vedi tu il mio nome non lo fare mai, che sono un campione a finire nei guai. Tanto so che ci stai e non c'è niente di male, anche se poi capita che il tuo ragazzo prende il cell, fa 113. Sa che potrai scappare via e portarti con me. Furbo incorreggibile, mi dicono di te. Al mondo uno ce n'è come Lupin. Penserò quante volte noi tutta la notte svegli a scrivere.